Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note del flauto magico di Mozart, aiuto, aiuto, se no son perduto, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Philippe Daverio. Buonasera a voi. Philippe Daverio non ha bisogno di presentazioni, un critico d'arte, forse il critico d'arte, un letterato, autore di molti libri, l'ultimo, Guardar lontano, vedere vicino, ne parleremo tra poco, ma innanzitutto gli chiediamo a che cosa si riferiva quando ci ha consigliato di mettere in apertura questo brano del flauto magico, aiuto, aiuto, se no son perduto. Perché il flauto magico per me è l'opera simbolo dell'esoterismo. Cioè di uno che vi introduce in un mondo che non conoscevate prima, che è proprio la storia della formazione del Papageno, no? E certo. Forse di Papagena. Allora mi diverte molto perché in fondo oggi ci tornerebbe abbastanza utile in un qualche modo avere una capacità di ricapire dove siamo andati, no? E di essere di nuovo introdotti. Ecco, ma non si riferiva magari al sistema, alla cultura italiana, aiutateci, se no questa cultura va a rotoli, va in frantumi. Allora, anche leggere così, sì, non è male letta così, va bene. È un po' la situazione attuale, sta andando tutta a rotoli, no? Speriamo di no, anche perché la cultura è una delle poche cose solide che ci restano per... È una delle poche macchine con le quali ci possiamo ancora battere, non è l'unica, eh. Però una di quelle che mette in moto il resto. Certo, con cui si può fare ancora business, con cui si può fare ancora anche innovazione, in fondo la creatività è alla base della cultura, dell'arte e anche della scienza. La creatività è una sorta di un riflesso psicologico che non hanno mica tutti e dove noi, devo dire la verità, tuttora non siamo gli ultimi della ruota. Siamo ancora presentabili, funzioneremo ancora per un po' se non facciamo troppe stupidaggini. Ecco, che cosa manca per valorizzare la cultura italiana, per valorizzare l'arte, per farla amare, oltre che per farla conoscere? Beh, manca forse un tipo di scelta di pulsione politica, non vuol dire quella dei politici, vuol dire quella della nostra comunità. Noi oggi viviamo una comunità che tendenzialmente non apprezza molto i creativi e non dà molte opportunità ai giovani. Li mette nello stesso pacco, i giovani sono rompiscatole come i creativi, quindi lasciamoli perdere, mentre in fondo sarebbero l'energia sulla quale bisogna far vivere la nazione. Quindi un po' più di creatività, un po' più anche di cose, diciamo, non programmate, lasciare un po' più di libertà anche alle persone. Spingere la gente a esprimersi, generare situazioni dove l'espressione è possibile, battersi di più contro il conformismo quotidiano. Tutto un programma in realtà, immaginare che il futuro esista, mentre molti pensano che il futuro non ci sia, tutto questo si fa con i creativi e con i giovani. E guardando anche al passato, ecco, io ho citato all'inizio questo suo ultimo libro, Guardare lontano, vedere vicino, in cui lei parla del Rinascimento, è questo guardare lontano, guardare al passato. E vedere vicino perché? Beh, perché uno quando guarda lontano, perché le cose non vanno guardate superficialmente. Quindi uno si mette lì, le guarda con attenzione e se è fortunato capisce. Quindi esercizi di curiosità, ha chiamato. Sì, sono esercizi che uno fa, dice adesso vorrei un po' capire di più. Mi metto lì di buzzo buono, mi metto lì senza pregiudizi, guardo queste cose anche col tempo che mi chiedono per essere guardate, non con una sorta di veloce voglia di consumo. La pinacoteca non è una paninoteca. Ecco, però le pinacoteche, i musei italiani sono molto spesso più una collezione di tante cose in cui uno dopo la seconda e la terza sala un po' si stufa. Non ne può più, ma sono d'accordo con lui, povero uomo. Infatti io penso che non bisognerebbe avere un biglietto ma un abbonamento. Ecco, bisognerebbe tornarci ogni tanto, guardare una cosa e poi dire sai che faccio, questa volta mi sto facendo in Milano-Roma, mi fermo 2 ore a Firenze e vado a vedermi un quadro. Forse la mia può sembrare una dichiarazione snobistica, però non lo è, cioè se avessimo la capacità di ritrovare il tempo per guardare ci farebbe del bene. Beh, in fondo hanno successo anche delle rassegne, delle iniziative, degli eventi in cui c'è solo uno o due quadri in cui vengono portati alla ribalta e la persona ha la possibilità anche di approfondire, non solo di guardarne uno e tentare di capirlo, di guardarne uno, che è la cosa più carina, cioè invece è obbligatorio mangiare tutto un museo in un pomeriggio. Ecco, in questo però dobbiamo fare dei passi avanti. Dobbiamo fare i passi avanti a livello di organizzazione, a livello di direttore di un museo. Sì, dobbiamo fare un incrocio di piccole mutazioni, un po' nel gusto del pubblico e un po' forse anche nell'offerta che gli enti pubblici devono articolare in modo diverso. Cioè, si potrebbe benissimo decidere che una volta che hai comprato il biglietto per gli Uffizi vale per 6 mesi. Ma è un'idea che lei ha già proposto al direttore degli Uffizi? Io la lancio ogni tanto come provocazione, poi dicono sì, ma poi quando riesce rivende il suo biglietto a un altro. Beh, la burocrazia complica anche le cose semplici, sì. In Italia, no? No, ma forse ha anche ragione il direttore in questo caso. Allora, facciamoli fare un tesserino. Oggi fare un tesserino costa 1 euro. Sì, ma poi anche con la tecnologia si possono risolvere tante cose, ormai si può, basta guardare un obiettivo, fare non dico un'impronta digitale, ma esatto, il riconoscimento si può fare. Quindi su un computer, non è una roba complicata. Quindi lei sposerebbe anche la classicità con l'alta tecnologia. Sì, assolutamente, devono andare d'accordo. Ecco, in questo senso del libro si parla quasi di un metodo d'Averio. Se lei potesse riassumere il metodo d'Averio di guardare appunto alla storia dell'arte, come lo direbbe, diciamo, a quei pochi che non lo conoscono ancora? Beh, non lo so, fare un misto di curiosità, di attenzione, ma anche di pettegolezzo. Cioè le cose si guardano anche perché sono ne nascondono delle altre, sono delle chiavi di accesso, sono dei piccoli segreti, sono delle robe che devono rimanerci in testa per il dettaglio che hanno portato con loro, cioè sono tantissimi percorsi che si possono immaginare di fronte all'opera d'arte. Quello scolastico, accademico non è di solito il più convincente. Ecco, a livello di curiosità sembra che appunto in questo libro le apprezzi molto per esempio Leonardo. Leonardo mi è simpatico, sì, mi è molto simpatico anche per la sua bizzarria, per la sua complessità, per il suo pessimo carattere. Io credevo avesse un carattere terribile. Infatti se l'hanno mandato a Milano invece di mandarlo a Roma, quando mandarono tutti i ragazzi bene a decorare la Cappella Sistina, lui non l'ha voluto, ci sarà pure stato un motivo. L'ha mandato a Milano dal Duca di Milano perché, essendo lui comunque legato a una famiglia che era influente a Firenze, non potevano mandarlo al diavolo. Però perché lui mi ha dove sono caratteraccio, ogni volta che l'ho incontrato me ne sono potuto rendere conto. Ecco, un po' il carattere è in fondo una dimostrazione anche della capacità delle persone di essere un po' irrituale, insomma, di non adattarsi tanto alle situazioni. Incontri. Ancora con le note del flauto magico di Mozart, riprendiamo il nostro incontro con Philippe D'Averio. Abbiamo parlato nella prima parte appunto dell'approccio all'arte, della necessità appunto di far conoscere anche meglio, magari diceva Philippe D'Averio, dando un biglietto del museo in modo che uno possa tornare a guardare un'opera per volte, in modo che possa apprezzarla. Abbiamo parlato dell'ultimo libro, Guardare lontano, vedere vicino, in cui Philippe D'Averio parla appunto in maniera anche un po' irrituale degli uomini del Rinascimento italiano, con quello che possono insegnare ora anche con il loro carattere. Philippe D'Averio notava anche con soddisfazione il caratteraccio di Leonardo e cita anche un altro caratteraccio, quello del Caravaggio. Ecco, un artista deve avere un cattivo carattere, Philippe D'Averio? No, non necessariamente, sono artisti buonissimi, cioè Raffaello aveva un carattere fantastico. Me lo ricordo bene, cioè era proprio il principe degli artisti. Purtroppo è morto a 37 anni, se no magari gli veniva anche cattivo carattere, ma non credo, era proprio caratterialmente ben costruito. Sono gli artisti assolutamente bonari, altri che sono più. Caravaggio era quello che si dice un caratteraccio, cioè uno che per sua natura era incline abbastanza così all'anarchia. Lei dice talentaccio e caratteraccio, un grande talento e un cattivo carattere. Un grande talento perché Caravaggio ha segnato un po' una svolta nell'arte, nell'espressione artistica. Ha cambiato il nostro modo di guardare le cose, ma le ha anche cambiate in un modo molto teatrale, cioè è riuscito a inserire nelle sue opere queste impostazioni sceniche, che non sono come si pensa di solito, la luce, lui ha scoperto la luce, no. Lui scopre tutto come se stesse avvenendo in una scena teatrale. Ecco, quindi una scena teatrale in cui appunto però la luce, l'ombra, il buio restano comunque degli elementi in fondo che lui ha portato alla ribalta. Prima era tutto illuminato. Sì, ma poi arriva fino al teatro della strada, nei vicoli napoletani, arriva al teatro della galera dove viene decapitato il Battista, cioè, però è sempre una visione di tipo espressivo ed è per quello che ci è tornato a piacere nel XX secolo, quando abbiamo scoperto le nuove aree dell'espressività, quelle del cinema. Cent'anni fa Caravaggio non piaceva, piacevano delle cose molto più dolci, molto più eleganti, molto più belle époque, molto più pastellate. Certo. Arriva la rivalutazione all'inizio del XX secolo e oggi ci rendiamo conto che senza di lui non potremmo esistere da un punto di vista dell'immaginario, ma questa sua riscoperta è anche in parte legata alla riscoperta della forza e della dramma del XX secolo, cioè lui anticipa una parte del nostro dramma anche se torna proprio fuori dalla notte della storia. È un'arte molto molto presente. Ecco, vorrei farle una domanda provocatoria, Filippo D'Averio, cosa pensa dell'arte contemporanea, quella che viene chiamata l'arte contemporanea? Io cosa ne penso? Spesso sono critico, spesso non lo sono, cioè io sono legato ad alcuni artisti formidabili, quando penso a un artista come Gianni Cunellis o quando penso anche agli artisti meno sulla ribalta come Pino Spagnuolo oppure a molti artisti di oggi, anche alcuni grandi artisti figurativi, molti artisti che sono totalmente ignoti. Però c'è una cosa che mi raccontava, una bellissima testimonianza che mi fece Sebastian Matta, il grande surrealista cileno parigino, quando aveva 92 anni, un poco prima di morire, che mi disse con un accento spagnolo, ispanico sudamericano, mi disse: è l'arte contemporanea, non è arte, perché l'arte è una cosa più grave. E qui lui ha ragione, cioè l'arte è una cosa grave. È una cosa grave come una malattia grave, come un movimento grave, ma anche come la gravità di un oggetto, cioè pesa. Noi viviamo oggi in un mondo dove l'arte pesa poco. Cioè, attenzione, non che non sia in grado di documentare la nostra epoca. Il cuore di plastica gonfiato di Jeff Koons in realtà corrisponde perfettamente all'America di oggi, la descrive, anche lei un po' di plastica gonfiata, brillante, certo, ma vuota. Quindi lui per l'antropologo è interessante, ogni fatto artistico, anche il più stupido, cioè anche i bambini appesi di Cattelan nel momento di massima demenza nella strada a Milano, corrispondono comunque alla volontà di comunicare, di stupire, di coinvolgere, però corrispondono anche alla società, quella nostra oggi. Certo, una cosa è l'espressione, una cosa è qualcosa che resta nel tempo. L'arte forse ha bisogno del tempo, del giudizio del tempo per essere definita tale. Si può scrivere. Sì e no. Quando Duccio presentò la sua maestà a Siena, la fecero passare in processione nella città e fu approvata immediatamente. Questa è un po' una roba che ci è venuta per via della faccenda delle avanguardie, che le avanguardie interessavano le avanguardie e avevano bisogno di un tempo lungo per essere assimilati dalla massa della società. Ma oggi che le avanguardie sono finite, perché è finita la società di classe nella quale si poteva far vivere l'avanguardia, oggi dovrebbe essere ancora così, forse no. Forse un fenomeno artistico può essere capito anche abbastanza in fretta. Ma forse oggi non è più facile essere artista, è certamente difficile come in passato fare strada, farsi conoscere, però sembra che gli artisti contemporanei abbiano una certa facilità, cioè pensare al tempo necessario per un'opera, chiamiamola così, classica, e a quello che invece può essere nell'arte contemporanea magari anche solo un taglio di un quadro, un grande rispetto per chi taglia il quadro. Fare l'artista, è più difficile essere un artista. Fare l'artista non voglio dire che è come fare il bischero, no? Certo. Però fare l'artista serve ad un sistema della comunicazione che per arrivare lontano deve ridurre la potenza del messaggio, perché il messaggio più è normale, più è banalizzato, più è suscettibile di andare lontano. Quindi molti quelli che fanno l'arte, fanno gli artisti, la fanno per messaggi semplici e vanno molto lontano. Ma non è questa la faccenda vera, cioè sotto sotto rimangono ancora i misteri della vita, rimangono i misteri del pensiero, rimangono le pulsioni dell'esistere, e quelle non sono trasformabili in un attimo in una sorta di prodotto commerciale, e non sono neanche destinate ad avere un successo immediato. Anche oggi ci sono tanti artisti che verranno scoperti fra 3, 4, 10 decenni, e degli altri che sono notissimi che butteremo via. Ecco, sì, questo poi ci penserà appunto la storia, ci penseranno i critici magari a buttare via tante cose, però lei non solo appunto apprezza l'arte classica in qualche modo contemporanea, per esempio ha riportato alla ribalta l'arte dell'Ottocento, il secolo lungo della modernità, un altro libro recente. Sì, è l'ultimo libro che ho fatto, è il secolo lungo della modernità, perché noi pensiamo sempre di essere noi i moderni, mentre in realtà la vera modernità è quella che è andata dalla rivoluzione francese al primo volo aereo, al primo telefono che funziona, alla prima automobile col motore a scoppio, cioè alla scoperta dei microbi da parte di Pasteur. Cioè lo sforzo intellettuale dell'umanità in quel secolo lì è stato maggiore di quello che abbiamo compiuto noi, abbiamo scoperto molto meno, forse scopriremo domani, ecco, io non getto la spugna, magari domani troviamo ad essere creativi. Cosa possiamo imparare dai francesi, lei che è così vicino alla cultura francese? Oggi devo dire la verità, molto poco, poveretti, sono in una situazione quasi uguale alla nostra. Possiamo imparare qualcosa di quello che fu il grande Ottocento, cioè di quando una classe sociale era dominante ed era aperta, non era chiusa. Cioè la grande mutazione fra prima della rivoluzione e dopo la rivoluzione non è nella struttura delle classi sociali, ma è nella permeabilità delle classi sociali. Questa permeabilità ha fatto della Francia la protagonista indiscussa del XIX secolo e ancora una delle protagoniste parziali del XX. Oggi la Francia come l'Italia sono diventati dei paesi un po' stanchi, non so come si farà a farli ripartire, ma però non sono neanche del tutto disperato, qualcosa dovrà pur succedere. Qualcosa dovrà pur succedere, cosa possiamo fare allora per far ripartire anche lo spirito del tempo, la voglia del bello, la capacità delle persone di accorgersi? Quello che ha insegnato quello straordinario francese, grande diplomatico, grande politico, Giuseppe Sel, che ha lanciato il movimento indignatevi, dobbiamo riprendere la voglia di indignarci, cioè di guardare le cose e non accettarle, assorbirle, ma indignarci non solo davanti alla politica, davanti all'estetica, davanti al ritmo di vita, davanti alla comunità alla quale apparteniamo, cioè dobbiamo avere il coraggio di nuovo di diventare esseri che hanno del sangue che pulsa e che questo sangue che pulsa faccia funzionare un cervello che si svegli. Perché di cose brutte comunque girando per le nostre città ce ne sono. Tantissime, ma però devo avere il coraggio di prendere coscienza. E di fare qualcosa anche perché il bello possa essere appagante, possa essere ricercato, possa essere portato un po' alla ribalta. Lei si sente un po' un missionario del bello? No, perché il bello è una cosa così complicata che non si capisce bene. Però quello che si capisce è l'armonia, perché ognuno può avere il suo gusto. Quello che ci mette in crisi oggi non è che una cosa bella o l'altra è brutta, è che tra di loro sono disarmoniche, come è disarmonica la società nella quale viviamo. Allora l'impegno reale è quello di mettere le cose in sintonia, di offrire le opportunità a tante robe di vivere insieme e di dialogare. Ecco, quindi mettendo insieme anche, diciamo, arti diverse, così come la passione per la musica, abbiamo iniziato con Mozart, con le cose belle della musica, possono accompagnare anche un bel quadro, una certo, visita di un bel monumento, di un bel museo, ammesso che anche un bel piatto di spaghetti, Anche un bel piatto di spaghetti. Un piatto di spaghetti, ma anche un bel modo di vivere, anche un bel modo di comunicare, anche una cortesia fra gli esseri umani. Cioè tutto un meccanismo che dovrebbe essere integrabile. E quindi che la persona un po' in tutte le sue componenti sia appunto armonica in un certo senso. L'armonia, la cosa che credo sia più importante è l'armonia della bellezza. L'armonia, cerchiamo... Lo diceva già Pitagora, non è che l'ho inventata io sta roba qua. Beh, la matematica è per sua natura armonica, perché certo, comunque fa rientrare le cose, le persone sono un po' più esuberanti ed anarchiche, forse poi l'armonia ognuno la interpreta a modo suo. Comunque complimenti per come la interpreta lei, mi sembra che la ricerca dell'armonia sia già a fare un passo avanti anche per mettere in risalto le cose, e sono tante che non vanno. Sì, ma già solo dirlo e dire, guardate che la faccenda dell'armonia è importante, allora uno ci pensa. E allora... Fermiamoci qui, riflettendo su questa Pensiamoci. Ringraziamo Philippe Daverio per essere stato con noi questa sera. Abbiamo fatto qualche passo nel mondo dell'arte, abbiamo fatto qualche passo nel mondo della critica, la ricerca appunto delle cose belle che possono un po' consolarci del fatto che ci siano in questo mondo anche delle cose brutte, come ci saranno sempre, ma cerchiamo un po' anche di ostacolarle, di capirle, di cercare di valorizzare quello che è bello e di mettere un po' da parte quello che invece è un po' meno armonico. Grazie Philippe Daverio. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille, grazie anche a Roberto Scaltritti in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.